Radio Tube, l'intervista di Marta Cagnola. Un saluto da Marta Cagnola, è il momento dell'intervista di RadioTube, come sempre con i grandi protagonisti dello spettacolo. Studi di Radio 24, Milano. Ha suonato il suo piano su una piattaforma galleggiante sul lago di Como, su un aereo in alta quota, è pronto per un concerto nel deserto in Oman. Il suo album è Share the World. Alessandro Martire. Sono un compositore pianista, abito sul lago di Como. La mia passione per la musica è iniziata con il pianoforte, per poi sfociare nella scrittura per pianoforte, orchestra, soprattutto colonne sonore, spot pubblicitari. Poi ho portato la mia musica in tutto il mondo e da qui proprio è diventato una fonte di ispirazione che mi ha portato a scrivere questo nuovo album, Share the World. Nel promuovere i dischi precedenti viaggiavo tantissimo e ho conosciuto culture che mi hanno portato poi a scrivere un disco. E ogni traccia di quest'album racconta una storia legata alla natura, legata alla condivisione culturale, a un qualcosa che mi ha colpito, come nel caso per esempio di Ena, che è ispirato alla fioritura dei ciliegi a Sakura giapponese. C'è un brano ispirato al deserto, intesa come purezza del suono, e la fortuna di fare una musica strumentale puoi veramente comunicarla ancora più direttamente a tutte le varie culture che per me sono state fonte di ispirazione. Devo chiederti una cosa sulla registrazione del disco, perché è registrato anche a Mosca. Sì, ho registrato a Mosca. Io in Russia diciamo che ho iniziato da artista a veramente la mia carriera e ho trovato veramente una, sia dal lato comunque artistico con il pubblico, un pubblico molto giovane, un pubblico vicino alla, cioè della mia generazione, vederli a teatro per me qua è abbastanza surreale al momento. E quindi ho trovato veramente una bellissima, bellissimo feeling. In Russia ho fatto 15 date con tantissimi musicisti, quindi da lì ho deciso di registrare il disco a Mosca, perché essendo un disco orchestrale mi sono trovato molto bene con i musicisti e poi lo studio era molto bello, il Mosfilm Studio, dove registrano comunque delle colonne sonore molto molto importanti, quindi è stata una decisione spontanea artistica. Abbiamo citato spesso le colonne sonore, mi sembra per te un approdo possibile, ti piacerebbe? Sì, esatto, diciamo che questo disco è anche un po' il voler dare un messaggio, che è uno dei miei grandi obiettivi, è quello delle colonne sonore, e in particolare i documentari. A me piace molto scrivere musica per documentari, è una cosa che mi affascina molto il cinema, però i documentari, cioè le storie vere, è un qualcosa di incredibile, perché sono storie veramente vissute e la musica, il mio modo di raccontare la musica può avvicinarsi ancora meglio a far emergere le storie reali. Quindi diciamo che il disco anche orchestrale, registrato con un'orchestra vera, è anche un messaggio che va in quella direzione. Ed è tutto per questa puntata di RadioTube, l'intervista con Alessandro Martire. I prossimi appuntamenti con RadioTube sono il sabato con Social Village e Social Network in diretta dalle 16:00.